sono finiti i miei orizzonti tra scontri, incontri, sempre più confronti. Galleggio come l'etere, a passeggio sotto braccio con il diavolo. Voglio connettere strane situazioni, divisioni, tentazioni, mutazioni genetiche del mio sistema. Strane persone questa sera mascherate a tema. Rifletto con me stesso in quel giardino dei pensieri da me nascosto, dove il tempo si ferma, l'aria è deserta. Un raggio di sole davanti a me si incendia. Potenza della metrica più della lirica mi dà la carica, il mio pensiero che comunica. Notte spesse come il cemento che mi avvolge, messo dentro una bobina che si riavvolge. Disperato cerco Silent Hill, ora proteggo la mia spada come Kill Bill. Nel giardino dei ricordi a volte mi nascondo da questi demoni. Troppi falsi in giro, troppi sbagli senza più respiro. Troppe condanne, troppe farse, ombre scomparse. Nel giardino dei ricordi a volte mi nascondo da questi demoni. Troppi falsi in giro, troppi sbagli senza più respiro. Ombre scomparse, troppe farse, troppe condanne. Mimetizzo le emozioni davanti a tutti questi cloni, perché voglio resistere ancora, voglio credere che non sia tutto effimero, che non sia tutto un calcolo di un solo numero. Conto le mie dita, vedo pochi amici, infiniti vuoti in questi spazi resi bui, allontanati per motivi ignoti. Rimango in buchi, guardo attraverso vetri opachi, la falsità ci rende tutti uguali. Rubare per potere vivere per poi rubare tutto ciò che serve, con parole sciolte al vento. Forse servi a niente, forse servite a tutto. Ho messo grosse pietre sul passato, troppe sconfitte non ho calcolato. Troppo sangue sull'asfalto come lacrime ho versato. Adesso tiro le mie somme ed ora dal mio inferno tiro fuori solo fiamme. Nel giardino dei ricordi a volte mi nascondo da questi demoni. Troppi falsi in giro, troppi sbagli senza più respiro. Troppe condanne, troppe farse, ombre scomparse. Nel giardino dei ricordi a volte mi nascondo da questi demoni. Troppi falsi in giro, troppi sbagli senza più respiro. Ombre scomparse, troppe farse, troppe condanne. Come Donnie Darko stabilisco un piccolo contatto con la mia esistenza. Invento nuove tecniche speciali di sopravvivenza. Chiudo gli occhi, ora inizia il conto alla rovescia. Lancio l'ultimatum come per la terra, immerso in questa personale guerra. Cerco la mia nuova scia, cerco qualche cosa che mi porti via. Io mercenario tra falsità e ipocrisia. Divido le mie sensazioni tra mille ombre e pochi riflettori. Con molta cura scelgo le parole per gli elettori. Prima che il male riaffiori, ora che siamo tutti vulnerabili qui fuori. Inseguo da una vita il sogno, tante prove superate, ma sai in fondo voglio solo un piccolo frammento del mio mondo per tornare nel giardino, in quel giardino del mio ricordo. Nel giardino dei ricordi a volte mi nascondo da questi demoni. Troppi falsi in giro, troppi sbagli senza più respiro. Troppe condanne, troppe farse, ombre scomparse. Nel giardino dei ricordi a volte mi nascondo da questi demoni. Troppi falsi in giro, troppi sbagli senza più respiro. Ombre scomparse, troppe farse, troppe condanne.